Tutte mandate se di virus. Avviso, ultima data se di virus. E poi siamo in di canto, comunque, buongiorno. Il AM fa veramente pietà. Il FM la radio era chiara, ma era molto bassa, molto bassa. Capito? Cosicché, boh. Tu dici che abbia toccato la sera corsa, non c'entra niente. In questo caso, perché se no a chi la ferma avrebbe dispensato. E non mi sta arrivando nemmeno a me, non mi sta arrivando. E infatti sta uscendo sempre male, dai. Boh. E dici magari lui non se ne intende, per cui non, magari lui sta provando, magari forse lo guarda di più. A chi deve essere trovata la provendita, non provisci, capito? Ci vuole una persona che sappia come, cosa mette, dove mettere le mani, capito? Ma abbiamo fatto vedere anche noi, come fare. Forse è buono, non è... Forse ha fatto male. Fino a stamattina io l'ho sentito bene, poi no, non lo so. Ah, tu mi senti? Ma magari stamane era con l'altro apparato, con quello che si è assurdo. Con questo proprio una pelle si sente, ma è basta, nemmeno se gli comprende proprio il tubo, Adesso cerco di contattarlo io a vedere cosa ha combinato. Lo devo controllare bene, perché non andava a sentirmi male, proprio male. Riprendi che male. Se uno se ne intende, secondo Cappellecchio, che è chiaro che non comprende un accidente, per cui invece magari aggiustarlo lo guasta di più, e chi dà ragione. Ma, proprio, stava a vedere giù. Ok, bene. Ma infatti sì? A questo momento me ne vado la gravia lì perché me la posizione che è pronta da lui. Mi raccomando, se non la bevi in caldo, tiena la ragazzi, c'è poi un po' d'eva. È pronta a pulirsi chi si lastrone di cemento, chi hai affigliato dalle mani, capito mi hai? Mi insegna a Russia, si segna, amico, ammina sarà minita veloce, li guaglio, li sopravvenzi. E se tanto intendi? All'intengo io, adesso sto facendo tipo per la scuola, c'ho un altro apparecchio attaccato per farlo scaldare vicino a me. Ciao, lui se lo può permettere a mangiare bene, no? Come lui, cazzo, mangiamo le bicchiette dagli altri, cazzo. Avviso, lui se lo può permettere, paghissimo e ben imbuffato, è tutto gonfio, A quasi mangia bicchiette e gamberoni, e pittore fatto la cacciatora. Così lo vado, la pazienza. Aspetta, 2 minuti che gli do questi bicchetti con lo stavetto. Ma tu scherzi bello, succio di lusso, preso di mole per peroncino. E te. Ui, è fuori per la cannuccia. Arriviamo a mangiare. Pare che si tenga, ya. Ma chi su questa pacchetta moglie così andrà a frase, gatta? Pensi di pacchetti e freccia? Bisogna anche mangiare, bisogna. Allora, roba buona e mangiare alla grande, gatta. Ecco. La truffa. Già, tocca se lo può permettere, gatta. Grazie, se lo può permettere. Bravo, grazie a mani di appuntigini. penso alla salute, che è il più importante invece. E allora, ciao Antonio, ciao Gio Maria di nuovo. Ehi, fa metti più un campo da Rubacconi però, eh. Anche io con fretta, io non mi attacco. Hai te, fai bene Ru, fai bene gatta. Io te l'ho fatto così, coccare, in un'altra camera te l'ho fatto così, coccare. Ma chi chi su gatta è su cricchio mio, gatta. Da vedere tutti questi rumori che intendo la notte, che arrivano le droghe, che stocchette, che è vero, no? E allora, come ti ha fatto la sana che si è città di Fasimato, che ha detto cosa era questo rumore, e ha detto che ha detto un cazzo, no, ravai, che non è nessuno. Ma vai da vedere, rumorete, che sapevo che era il drone, mi pare da trovare da reggio. Ciao di raffaggio, socio Mari! Bobo! Arrivo se vai a giovani! Arrivo se vai a sì, farò un giovane! Ehi, ma non fu scelto, Bobo! Uno che ti bruci che io sarei giocatore l'abito di pallone, no? Ma non fu scelto, Bobo, capire che stanno frasi! E allora, ha un filotto che bongo in bocca, Gio Mari! Buongiorno a tutti. tutti, ciao Rosi, ciao Gio Maria, ciao anche a Graziano, Vicentino e tutti gli altri amici. A me mi pare che Graziano si pone due paroni, passi a Rillo. Comunque, buongiorno Gianni. E ok, fai così Roma, va così Gaglia, cazzo, ti immaginate, insomma. Ma ti immaginate, cazzo. Prova a fare su travaglio aggiuntivo, Roma, a ver se ribassa. Già, già provo, via. Se l'ha detto con la riduttore, dice che si dai il culo, dice, ma... Ascolta, ma cosa posso fare io? Graziano, per questa pressione, che questa temperatura del calore che mi viene, e dice signora già, ci posso pensare a me, io ci penso, io ho detto, lo prendo, te lo butto dalla finestra, se puoi fare di Giovanni. Dai, è che da voi fai male, quasi male così, capito Ru? A te un bel tu e me, a te mi fai un bel tutti i mezzi, tu lo bagusta, no, non fai come ti ho detto io, Rufo, dai, gli ripassa, va, ripassa senza altro, c'è qualcuno che ci ha chiamato, chi è? Avanti, chi chiama? No, non riprende, capito me, te, Rufo, boh, già, riprendi che mi stanno chiamando, dai, rientro subito. Bobo, vicino a me non sono mai contenti, Gio Maria. Ma sì, siamo qua. Non sono mai contenti, vicino a me. Quando il marito anda bene, non lo vuoi. Quando invece non vi avanti, si risecano gli altri. Poi non si ricompete più dai. In occhio bisogna contenere i cosi, Però Gianni, dai, è troppo. Quando è troppo, esagerato. Ormai io non ce la faccio più. Adesso magari uno più giovane, no? E allora? Avanti, Antonio, che mi sta chiamando mia moglie, un secondo. Bisogna sopportare, Certo, ci vuole pazienza, no? Ci vuole pazienza, sì, ci vuole. Oggi sembra una giornata così, ma hanno fa acqua, ma sembra che ci sia il sole, però dentro casa c'è freddo. Va tutto bene, dai. Che stavo dicendo, che sembra, oggi hanno messo acqua, ma sembra che sia una giornata così da asciugare. Oggi c'è freddo. Stamattina ha fatto qualche goccia d'acqua, adesso mi sembra che è uscito un pochettino di sole, mi sembra che no, non c'è più piovere. Ha piovuto stamattina presto, sì, ha piovuto, però stavo dicendo, poi c'è freddo, e anche sarò dentro casa, Faccia proprio perché c'ho freddo. Stamattina ne ho preso un pochino perché sono uscito, quindi c'è freddo, c'è. Beh, è tempo suo, Ha fatto molto caldo quest'anno. Sì, caldo ne ha fatto. Con la stufa, se la stufa a gas, insomma, se ce l'hai in cucina. Scalda solo in cucina, ma nelle camere no, così è. No, scalda. Scalda nell'ambiente in cui è. Scalda solo lì. Io già lo conosco molto bene, le stufe. Purtroppo è così, solo di lì mi sembra che anche di lì il riscaldamento non ce n'è, così è. Ognuno ce l'ha con il suo. Tutte le stufe qua, non c'è riscaldamento autonomo. Ah, non c'è, che quello era. Allora, raccolta, avete conviene? A quelle una di quelle sue fratelle, perché è bella. Non me ne faccio niente delle sue fratelle, perché lavoro nel gas, quindi. Ah, ecco, ho capito, allora, perché anch'io sapevo la stufa prima, vabbè, quella magari la accendo la mattina, però io c'ho anche il riscaldamento, ho capito, a gas, però le bombole costano, la accendo così ogni tanto, però io la verità adesso mi ho comprato questa stufa pelle perché è molto bella e scalda tutta la casa. Lo vendono anche da Eurospin, pellet, dalla Sisa lo sto vendendo, no, c'è comoda, scaldano pure un bel scaldano. Addirittura ce n'è anche un tipo che c'è anche la cucina, c'era. No, quello che stai dicendo tu, Antu, siccome noi l'abbiamo presa proprio alle punte, quelle buone, ma ci vuole il pellet adatto alla stufa che c'hai, capito? Perché quello che stai dicendo tu non serve, quello è per altre stufe, capito? Quel pellet nero, quello non va, quelle deve essere che c'hanno stufe diverse, non lo so, capito? Devi prendere il pellet adatto alla stufa. Se ne accorgi dalla fiamma, c'è la fiamma attiva, vuol dire che va bene. No, questo che prendiamo noi a te, sì. Marico, quando la fiamma la scendi proprio tirare bene, no, soffiare bene, allora vuol dire che quella legge è adatta a quella strada. Se non è adatta, la fiamma rimane in buccia. Sì, infatti, c'è ragione, perché noi d'accordo alla disco abbiamo visto che sembrava preciso a quello che compriamo noi, invece quando l'abbiamo messo come fiamma, no, non faceva proprio bene, capito? Invece questo che prendiamo noi, che abbiamo preso la tuta, è proprio adatto, è buono, rimane bianco bianco, capito? Perché secondo, se te ne prendi a mettere la tuta, allora sai come si fa tutto nero, ehi qua, non lo so che mi si pellette, però tu devi vedere come hanno rovinato i mondi. Sono stufa che se sai gestirle vanno molto bene, ma se li metti roba da prezzo che non serve, lei ne ha un pochino scadente, quello che metti poi ti fa, ti costa tutta quanta la stufa, tutta la tubazione, insomma, è una cosa, ci sono quelle che bruciano di un dito, perché ho un amico che c'ha bruciatore, Natalino, c'ha un bruciatore in campagna, li mettono di un dito, Sanse, come si chiama? Tipo pellet, però non è pellet, è graniglia, roba del genere. Ciao, ben sentito. No, questa qui funziona solo con pellet, però a pete, perché con quell'altro non fa. Cioè, chiaro brucia aromatese, però si fa il tripo di glicina e la fiamma è musca e non si riscalda come deve riscaldare, capito? Invece qui gli metto il suo, quello adatto che ci vuole. Questa sa che cosa di più, però ti riscalda tutta la casa, non te la imbrutta tutta e neanche la canna fumaria, perché di quella maniera là ti imballa subito la canna fumaria. La bene di smontare tutto, ma pure un macello, invece se ci metti il suo adatto, stai bene, tranquillo. Io ieri l'ho messo tre quarti di sacchetto, ce l'avevo accesa da ieri mattina, era accesa dalle 11. E aspetta, ieri notte io raga, mi ridesi in me. E nel manometro che c'era l'ingresso dell'altro riscaldamento mi segnava 24, dunque a voglia di garoni. Beh, anche troppo ce n'era. Ecco perché tu sei sempre caldo, che lui si sta lamentando che sei troppo caldo. Vi siete accavallati, lo so, ma io ogni tanto lo guardo, arrivo a 20, 21, 22 e poi la spengo, perché tanto non c'è caldo, proprio oggi in maglietta e oggi è già basso. Ma invece con un interruttore a gas, con la salvaglia, sì, a me la caldiera a gas. Però quando volevo portare a spegnere, il caldo si disperdeva subito, capito? Dopo di una mezz'ora mi ha dato raffreddo, tutti i termosifoni erano ghiacciati. E allora mi ho messo anche questa stufa adesso a vedere, che apparecchio è meglio. Ah, tu c'hai il riscaldamento, quindi non stai usufruendo, quindi adesso... Grazie. No, no, io c'ho, siccome qui c'era tutto l'impianto per tre palazzini, mi ci va burro pure più di là, la riunione, ha detto vabbè, io mi preoccupo con tu, non me la sostituta, no, io ho comprato la caldaia, l'avevo pagata allora quasi 5 milioni, e non la lunga, perché c'ho all'interno la terrazza, però il terrazzo è chiuso, dunque ora non è biglia, nulla, non è biglia e nulla lunga. Poi mi avevo messo anche qua nel terrazzo un termosifone in alluminio perché me l'ho modificato, ho capito, il terrazzino, ho messo la vetrata scorrevole e il termosifone. Si è accata quando è accesa, però una volta che lo spegnevo dopo mezz'ora mi era torna freddo, capito? E poi mi ho fatto i calcoli con le bombole, consumavo di più, sapevo che facciamo un ruggio, c'è la tanna, la bombola, la vanna, e l'occhio, pure se c'avevo il carrello, mi preparava la massa a tutti i gusti. No, è tutto completo, mi ho fatto anche l'impianto dell'acqua, funziona con quella caldaia a riscaldamento. Ma l'avevo tutto fatto io. Io sei bravo a fare queste cose. Capo, e lui si lamenta, tante le pagine ci si fermi, non sono mai contento. Ehi, sempre morroniene state, da bene che mi dici troppo gaggio, vinci lui che va bene, aiuto e la sbigliata di bomba di calore, ma di buio di bomba di calore, in cucina, in camera da letto e in cameretta. Che ha detto, fra poco accendo tutto, un lumino e vai, un gaggio e un freddo. Una scelta dove si ferma, ogni tanto me ne voglio nulla di cosa nuova, ci fanno sempre spendere i soldi, avanti, avanti. Non lo sai che è così, se ha fatto un ballone di una tuffetta così, no, perché sono sempre freddolosi, sono sempre freddolose, quindi bisogna accontentarle, dai. Le donne sì, le donne il sangue le circola di meno del resto, hanno sempre freddo, sempre freddo. Purtroppo è così, è la natura che è così. Già lo so già, ha sempre freddo, invece l'uomo è diverso, è un po' più... Io la mattina, cioè solo la mattina io sento il freddo, quando arriva la sera invece, va bene dai, manco un attimo che io devo uscire, dai, riprendete voi. Ehi, ehi. Ehi, ciao a tu, buone spese, gaba, gaba, saluto dal Correa, alle prossime. Così purtroppo vabbè che io ci avrà ragione, i luoghi sono sotto dove c'è io, tegole non ce n'è, i tetti sono atterrati, dunque ti puoi immaginare il più crepe di gaggio, e il ferro muove di freddo. E come era a casa di mamma, la stessa cosa, sacro cuore. Era così lo stesso, poi c'erano i muri intracchite, e quando c'era l'estate, quei muri intracchite assorbivano calore, tutto il giorno sembrava una fornace, tra i muri, era la gabbia, cremava di gas, una fornace sembrava quella casa, e invece l'inverno c'era freddo lo stesso, però umidità non ne ho mai visto a casa di mamma, una casa di 50 anni, non è più l'umidità, non se ne vede fare nessuna farfa. No, qui ce l'avevo un pochettino nell'angolino, ma forse dipendeva tutto la convenza, non penso che sia lui. Facciamo cosa, anche delle griglie, no, a fare dei furi e mettergli queste delle griglie per arieggiare, no? Invece ti dico, con questo fuori mi c'è una mancia in camera del bistigna, in camera da letto un angolino in basso, ma di cui per il bagoglio, tubi non venendo per la luce, e ti dico da quando sono questa stufa, non è uscito niente. Grazie, io a me questo problema qua me lo faceva, ti ho detto, lì chiuso il terrazzo, l'ho fatto anch'io, ho fatto la veranda scorrevole come l'hai fatta tu, ci ho fatto il cucinino all'interno della veranda, l'ho detto quando ho fatto il placcaggio in un angolo, ho fatto il placcaggio, ho messo la cucina, e così quando d'estate dobbiamo friggere roba del genere ci andiamo fuori per farti aria. No, io la cucina al terrazzo no, non me ne ho messo, perché c'è la cucina componibile tutta quanta, però qua nella veranda, nel terrazzo, ci ho messo il tavolo con le sere, mangiamo lì, ma soprattutto quando accendevo il termosifone si stava bene. E il linguaggio l'ha tentato l'ora, ma ci usa la ruduta pesca, tutte le zanzariere, e l'aria circola, capito? E gli assaggi, solo che lo sai cos'è, il periodo invernale adesso ti fa la condensa, fate un casino di condensa, anche se ci ho messo tutto lungo il muro il placcaggio, la condensa te la fa zero ma stesse, anche se c'ho le ventoline, i vasisti, come si dà da becchi, la condensa te la fa, perché è l'alluminio. E allora, è la stessa cosa fa a me. Io l'avevo pulito con la varecchina pura, l'avevo lasciata asciugare bene, tutto quanto, e poi l'avevo passato questa pittura antimuffa, è durato un po', adesso si deve essere intatta. Ho fatto il terrazzo all'antimuffa e coso, e si è rappresentato solo in quell'angolino, sempre lì si presenta, a fianco alla veranda. Sì, nell'angolino in alto qua me lo fai in un pezzettino solo però. E no, io avevo preso anche quel prodotto dello spruzzi, no, lo lascio 24 ore, e da poi durare in regola parecchina pura. E poi gli ho passato quella tinta, prima gli ho passato l'aggrappante, e poi gli ho passato quella tinta anche antimuffa. Ma con frustrazione non venne, solo un angolino piccolino se n'è la sua mano, infatti, gli ha spruzzato la parecchina pura e l'ha pulito, e già è bianco. Paga. Sì, no, è così, ma si forma sempre questa commessa qua d'inverno, perché si forma anche nei vitri. Sì, la commessa è un bel, infatti lungo la vetrata dove c'è tutti i pannelli in alluminio lì, sotto i vitri. Io la sera lo sai cosa ci metto, prendo un giornale lì. A chi mara dolci, tu lo acciughi, no, la sera, la notte, quando sei. La acciughi dopo di una mezz'oretta, tu ti torna a vedere i giornali gucci. Anche se lascia aperto, mi si forma la sua, evidentemente dal caldo di dentro, i gucci. Ciao Capri 2, buongiorno anche a te. Grazie a Caprilo, lo senti da muro. Aspetta, un attimo. Caprilo. E così ci sentiamo meglio, ma che c'è dove c'è. Ciao Caprilo, già ti copio di lì, e tu mi copi. Sì, ok, un attimo. Ciao, pagami, ha breccato anche Falchetto adesso. Ciao, capito, ben sentito, cordialità anche a te, dai. Avanti Falchetto. Anche. Dimmi. c'era tutta la fischia. Adesso va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'è la radio, è forte, è bella, però hai qualche fischio sotto. Qualcosa che non va. Ma stai alzando e abbassando il volume. Adesso non sto facendo niente, guarda adesso. Fischiato. Sta innescando qualche cosa è toccato. Ah, negativo, adesso? No, sempre fischiato. Prova, sicuramente qualche cosa di massa, qualche cosa di massa. Prova a mettere la mano sulla panica. Prova a parlare. Niente, non è quello lì. Il microfono abbraccialo bene con la mano a vedere se ti fa lo stesso. Ci deve essere staccato qualche filo, gli hai. Ehi, non lo sento più. Cava, ma capri due, ha chiuso. Ha chiuso, capri due, sì. Ma già ti sento, pio, mi senti meglio adesso? Se non lo vuoi, non so se viene là. Sì, perché io ho sentito il discorso, ma il sacro giudice mi ha fatto l'alimentatore, ma lo so, gli apparatori, e se fanno gli apparatori, la seconda la condivenza che fa, non esce come... Come devi dire, ma le chiami i portiali da te, guarda il segnale, come dice, la metà della radio. Il segnale è quasi 5, non è nemmeno 5, 5 è scarso, la radio va bene. Frequenza. 27015. Ma è la M? Sì. E perché sei stato così male allora? Che cosa vuol dire? Mi è toccato. Ma come fa sta facendo meglio? Io stavo facendo chiaro, solo il fischio ci aveva, ma stavo facendo bene anche l'aria. Ma solo quel fischio sicuramente era qualche filo che toccava, qualche filo staccato, ma rimediabilissimo. Adesso proprio la voce è come se fosse fuori frequenza. Manda questo passaggio a casa. Dimmi cosa stai toccando, a far che? Forse non sto toccando niente. E allora quell'apparato è da lampante. È tutto fuori, sembra che sia in FM, prova a guardare che l'hanno toccato la manopolina AM, FM, vuoi seguire e si ricontrolla. Ma papà era in FM, mica, perché io ho cambiato quando stava parlando, era in FM. Santiago non aveva luce, la radio era pulita, però era bassa. Quello ha toccato la potenza al fine corso, sicuramente, sta facendo male per quello. Lui non lo so usare ancora quell'apparecchio. Ok, semente. Perché non devi toccare nulla del chip, devi lasciarlo come tira rimane. Se non lo sai usare, poi ti va a finire che esci male. Allora, quel fine corso, dove c'è scritto fine corso, quello deve essere centrale, al centro. Pensate che adesso dovrò fare cosa, riprendetevela. Buona carica quando la fai già, Natalino e anche a Parchetto, salutoni anche agli ascoltoni, cappa che io qua devo cominciare a preparare, cappa. Ehi, grazie, vai a quella di là, poi ti vuoi preparare, lì. Graziano Natalino via, come sto facendo? È un altro apparato qui, aspetta che sei in FM sicuramente. Ora chiaro. 2, 3, 4. E lui? Adesso sei chiaro. Ho capito io cosa avevo toccato già. Ho capito io cosa avevo toccato qua. Mannaggia la marina. Cosa era? Aspetta, non lo vedo, manco con luce lo vedo questa cosa. Allora aspetta, ho toccato le... la... le covavano somme, non vedo manco a mie. Aspetta, aspetta. Vabbè, te lo dico come no. Aspetta che accendo la pila. Ciao, il fine corso è spostato. Perché anch'io sono spostato adesso. Io lo sentivo male, per esempio. È spostato di in trasmissione. Oh. Avanti. Avanti. Per qua, buongiorno a tutti. Ciao, ora se sono spostato anch'io. Ah, te ti sento bene. Marchito. Dopo il cielo stavo ascoltando un po' a Faichetto. Allora, con quell'apparatino piccolino piccolino mi arrivava Santiago 7. Con questo mi arriva Santiago 2. Infatti, a me mi arriva il basso di segnale. Attento Gianni. Via. Come ti arrivo a te? Oh, va, va, va. 1, 2, 3, 4, 5. Arrivi 7 di segnale e 4 di radio, dai. Ah, strano. Allora, ci deve essere qualche altra cosa che non funziona. Sì, pure in trasmissione, sì. Già, il fine corso è toccato, deve essere al centro banda. Quello che fa lo scatto. Marchetto, mi ascolti a me? Marchetto. Mi ascolti a me? Certo che ti ascolto. Io ti ascolto malissimo, radio 1 addirittura, Santiago è 2 qua. Uscivi meglio con quel portatile. Kappa. Ha toccato il fine corso e ti sto dicendo, io l'ascolto bene adesso, lo so Barroso, perché c'è il pulsante lì in trasmissione. Ma guarda lì, ascolta un attimo Allora, lui con quel portatile mi sembra che ci aveva 3 watt, una roba del genere. E qua mi arriva Santiago di 7. Tanto adesso che c'ha un paracchino migliore, molto superiore a quello, sicuramente quel paracchino sto usando da buttarci perché non serve, o da ricontrollare. Tanto mi arriva Santiago 2, la radio quasi quasi incomprensibile, perché sono in cuffia l'ascolto. Se ne tolgo le cuffie non l'ascolto per niente. Ma ieri a me mi arrivava 9.5, 9.10 qua a casa, e qualcosa è successo stamattina. No, ha toccato la potenza e la trasmissione lui, sicuramente, per cosa a me mi rivenderà su di me stessi. Ha toccato la potenza dell'apparecchio, ma la potenza regolabile ha quello lì, sicuramente ha toccato lì su e lei scende basso. Gianni, ma non vedo ieri mi arrivava. Gianni. Ehi, adesso come ti arrivo? 1, 2, 3, 4, 5, 7 di segnale, mi arrivavi 9.20. È un altro apparato, hai capito? Sto usando un altro apparato. E allora metti la parte, usa quello che c'avevi ieri, che andava a me. Fa cappa. Ma che, guarda se il Riffi Gay, il Mickey Gay è tutto aperto. Aspetta un attimo, non era un che la potenza regolabile avrà quella cosa lì, e sto facendo magari con 0 watt. Perché Natali, mi sembra strano che cavolo, mi arriva Santiago 2 qua, e con un portatile mi arriva Santiago 7, quindi qualcosa è successo, o magari sta toccando qualche pulsante che lui non sa. E non lo so usare, basta, e il problema è lì. Si è spostato anche in trasmissione, ti sto dicendo. Io per ascoltarlo devo girare lo shift qua. E sono qui lì, commetti, lo sentirmi qui, qua. Ecco. Ma a me mi ascolti, Falker? Ti ha accusato di fare tutta una cosa. Perché lui non lo sa usare, è inutile. Se io me ne vado al centro banda, non lo ascolto. E anche fuori frequenza. E se ti dice cosa sono io, lui è fuori frequenza pure in trasmissione. Io sono qui lì con me, lo senti un bip, guarda. No, non ce n'è il bip, Natali. Ma che sei cuocuomane, ecco perché sei fuori frequenza. Vai tu cuocuomane, sono qui lì con me, adesso mi ho inserito, va. Adesso ti accetto, ciao Luca. A tutti buona domenica, che bello. Ciao a tutti, sto andando, ci sentiamo stasera. Ciao. Ciao, buon pranzo. Ciao Gianni, anche a te. Buon pranzo, cara. Io pure vado a preparare, là, ci sentiamo più tardi. Capagama, ciao Natalia, anche io, QRT. È quasi pronto. Là. Ciao Luca, buon divertimento, buona domenica, ciao Falchetto. E a tutti gli eventuali ascoltori alle CDP. Ciao. Capo, anche a te, ciao a tutti, buon pranzo e a più tardi, ciao capo. Là. Io mi sto girando i bucati. E la gente comincia a girare pure io. Ciao, grazie. Carica buon tutto, Adon, ciao.